Alino, il primo debosciato sei tu! Questo si sa, martedì 31 gennaio, anche gennaio se ne va, anche i giorni della merla sono finiti. Il Sole 24 Ore apre sulle borse in calo, tonfo di Milano, lo spread sfiora quota 190, questo è il titolo di prima pagina, così per il Corriere della Sera, tensione su spread e borsa, questo è il titolo dedicato alla giornata finanziaria. Trump ancora tiene banco, Repubblica, l'America si ribella a Trump, Obama in pericolo i nostri valori. Mentre Canada, terrore nella moschea, questa è l'apertura della Stampa. La Verità invece, tutte le balle che ci raccontano su Trump. Veniamo poi alle questioni italiane. Ecco cosa succede se si vota oggi, questo è il titolo del giornale. Libero, la folle corsa dei politici alle urne, hanno fretta di perdere. Il Messaggero invece, l'Italia all'Unione Europea solo ritocchi, e qui siamo nell'ambito della manovra finanziaria, dobbiamo dare una risposta. Torna la questione Trump su Avvenire, Trump non dà la linea, e anche il Manifesto titola così: Terminal America, con la foto delle proteste negli aeroporti. Voglio però tornare e riannodare i fili con la vicenda raccontata ieri da alcuni giornali di Pompei, dove, secondo alcune indiscrezioni, i sindacati, soprattutto i piccoli sindacati, agirebbero un po' come delle sorte di ricattatori per ottenere favori per i propri lavoratori, e laddove non li ottengono, secondo addirittura una testimonianza, creano disagi come crolli di muri, tanto basta una spintarella su alcune vecchie rovine di Pompei. Beh, questa è un'accusa, e oggi il Corriere della Sera con Alessandra Arachi va a intervistare il sovrintendente generale di Pompei, Massimo Osanna, che racconta questo sul Corriere della Sera. Vi racconto tutti i ricatti di due sindacati, si vendicano su Pompei. E dunque già dal titolo qualcosa di vero ci deve essere. È una battaglia continua. Partiamo dal 2014 quando sono arrivato, oppure partiamo dall'ultimo episodio pochi giorni fa? Da dove vuole, sovrintendente? Ci sono questi rappresentanti sindacali che sono portatori di micro interessi personali, mi fanno richieste che non sono sindacali. Per esempio, per motivi di assenteismo ho dovuto accorpare due uffici del personale. Alle due sigle sindacali autonomi, UNSA e FLP, questo non è andato bene. Mi hanno chiesto di revocare il provvedimento, sono venuti dentro il mio ufficio. E io non l'ho revocato. Non era una richiesta nella loro disponibilità. E che è successo? La stessa cosa di quando non sono voluto intervenire col ministero per far mettere in conto alla sovrintendenza di Pompei i cosiddetti progetti speciali. Quando non esaudisco queste richieste, loro si vendicano. La maggior parte delle volte indicano assemblee negli orari di apertura degli scavi per bloccare l'ingresso dei turisti. Sta parlando di ricatti, sovrintendente? Purtroppo sì. E io reagisco più che posso. Appena arrivato mi hanno dato il benvenuto convocando un'assemblea sorpresa quando non ero in sede. Sono corso a Pompei, ho visto i turisti fuori dai cancelli, mi sono infuriato, ho strappato le chiavi dalla tasca del custode e ho fatto entrare le persone. Da lì è cominciata la battaglia. Insomma, questo soprintendente, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 19, racconta di una battaglia più o meno quotidiana con micro sigle, micro sindacati che, dice lui, portano avanti interessi personali. Evidentemente qualcosa di vero delle accuse confermate dal soprintendente c'è. E leggete l'intervista al professor Massimo Osanna, originario della provincia di Potenza, professore ordinario di archeologia classica alla Federico II di Napoli e sovrintendente a Pompei, sul Corriere della Sera. Invece un'altra vicenda, questa è una vicenda giudiziaria, ha visto ieri, anche se le indagini sono nel massimo riservo, l'arresto del procuratore capo di Aosta, una di quelle notizie che certamente fa terremotare un po' una intera procura. Tutti i giornali raccontano questa vicenda, leggo dalla Stampa, Paolo Colonnello: Arrestato il procuratore capo di Aosta, favorì un appalto da 70.000 euro. Il magistrato, secondo le accuse, chiese a un albergatore sotto inchiesta di comprare una fornitura di formaggio. Baluardo della lotta alla criminalità organizzata, puntiglioso in prima linea in inchieste difficili, precursore delle indagini sulla corruzione fin dai tempi di Mani Pulite. Pasquale Longarini sembrava ed è considerato un incorruttibile. Invece, scrive Paolo Colonnello sulla Stampa, il facente funzioni di procuratore capo Aosta, arrestato ieri e messo ai domiciliari su richiesta della Procura di Milano, è accusato di concussione per induzione, più precisamente per induzione indebita a dare o promettere utilità. Avrebbe cioè approfittato del suo ruolo e delle sue funzioni per favorire un imprenditore amico, Gerardo Cuomo, amministratore delegato del caseificio valdostano All Food Service, anch'egli arrestato. C'è il riserbo assoluto, segreto assoluto di questa indagine, ma in sostanza il procuratore Longarini, secondo l'accusa, avrebbe chiesto al titolare di un albergo e di una gioielleria ad Aosta, che in quel momento stava indagando per fatture false, di favorire il suo amico imprenditore affidandogli un appalto per la fornitura di fontina del valore di 70.000 euro l'anno. Una quantità di formaggio davvero notevole per un solo albergo, per quanto grande. La richiesta deve essere sembrata qualcosa di più di un consiglio per gli acquisti. E secondo i magistrati è una concussione. E va bene, guardate anche il Corriere della Sera. Pressioni sull'imprenditore indagato, arrestato il PM del delitto di Cogne. Sì, perché ha indagato anche sul delitto di Cogne. Costi, costi, costi! Sapete quanto costa il Quirinale? Vabbè, questa è una grande vecchia questione rilanciata, lanciata per la prima volta dal libro La Casta di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, la famosa vicenda del Quirinale che costa più di Buckingham Palace, molto più del doppio della regina Elisabetta. Ebbene, a 10 anni da quella vicenda raccontata, Virginia Della Sala del Fatto Quotidiano è andata a vedere se è cambiato qualcosa. Pochi tagli, così il Quirinale costa ancora più del doppio della regina. Sono a pagina 6 del Fatto Quotidiano, anzi a pagina 4 per la precisione. Nel 2006 l'indennità riservata al presidente Ciampi e poi Napolitano era 218.000 euro. Al servizio della Presidenza della Repubblica c'erano 987 persone, collaboratori a tempo pieno 85, il personale militare destinato alla sicurezza 2.158 unità, insomma un dispiegamento di forze che costava 160 milioni di euro, un totale di spesa annua di circa 235 milioni di euro. Oggi la spesa è diminuita. L'indennità del Presidente della Repubblica è scesa a 240.000 euro, in linea col tetto degli stipendi previsti per tutti i dirigenti della pubblica amministrazione. Poi quindi si è ridotta di quasi 8.000 euro se si considera l'inflazione. Gli stanziamenti pubblici per la macchina amministrativa invece sono sempre pari a 224 milioni di euro. La spesa è di 236 milioni di euro circa l'anno, più o meno in linea con quella di 10 anni fa, e costa sempre più dei 50,8 milioni spesi dai sudditi della regina Elisabetta nel 2014. Questi sono i conti che trovate a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Ma eccoci qui, siete pronti a vincere 2 biglietti per 2 persone, 2-2, insomma 4 biglietti, si hanno capito, insomma, vincono 2 persone, ognuno vince 2 biglietti, venite in coppia a teatro, al Teatro Mazzoni, domenica 20:45 con Leonardo Manera, il sottoscritto, Mauro Meazza che canta e suona, tanti comici, c'è Giuseppe Cruciani anche eccezionalmente che verrà, e che dire. Intanto la notizia, dovete scriverci il titolo di questa notizia, lo scrivete al 349-238-6666 via sms oppure via whatsapp, diteci come vi chiamate, da dove scrivete e scriveteci ovviamente anche il titolo. A nostro insindacabile giudizio, ovviamente vinceranno coloro magari in zona, zona Milano, abbiate pietà. Allora la notizia da commentare è questa, è la notizia anche che mi fa della giornata, quella da mani sul volante, imputati 34 consiglieri di Catania erano ubiqui per ottenere il gettone di presenza. Giuseppe Lobianco racconta, pagina 13, il record di Rosario Gelsomino, eletto nella lista il megafono di Crocetta, presente per 6 volte in contemporanea in diverse sedute nello stesso giorno, nella stessa ora, in sedi distanti tra loro, per incassare ovviamente più gettoni di presenza. Ma il vizio dell'ubiquità ai fini del rimborso coinvolge 34 consiglieri comunali di Catania, uno di questi anche assessore, 34 su 45. Per loro il presidente del GIP, Nunzio Sarpietro, ha imposto l'imputazione coatta di truffa aggravata dopo la richiesta di archiviazione della procura, che ha ritenuto insufficienti gli elementi per processarli. Ecco allora la notizia che dovete commentare. Imputati 34 consiglieri di Catania erano ubiqui per ottenere il gettone di presenza. Alessandro Milan, il tribune dell'informazione. Vabbè, grazie, eh? Non è uno proprio di quei grandissimi complimenti in Puglia. Accettiamo tutto, che dobbiamo fare? Allora, cari ascoltatori, cominciamo dall'America, da Trump. Le proteste continuano. Se volete continuare a chiamarci, tra l'altro 800-24-0024, questo è il numero di telefono, dalle 8 i centralini sono aperti, Mentre vedo che continuano ad arrivare titoli per vincere i biglietti di Platone su questa notizia dei consiglieri di Catania ubiqui. Ma dicevamo di Trump. Allora, Beda Romano e Marco Valsani raccontano le reazioni del mondo, ONU e Unione Europea contro il bando anti-Islam. Pagina 7 del Sole, sulla cortina di ferro fatta calare da Donald Trump su rifugiati e cittadini di 7 paesi islamici si è abbattuta una bufera di polemiche. Negli Stati Uniti la condanna dilaga dal mondo delle imprese a quello delle università, dalla politica allo sport. L'ONU, con il commissario per i diritti umani, ha detto sono azioni proibite e crudeli. L'Unione Europea ha chiarito che non preferirà mai isolamento e ineguaglianza d'apertura e parità sociali. In America le conseguenze dell'editto di Trump hanno preoccupato anche numerosi senatori repubblicani e esponenti conservatori. Cresce la protesta della corporate America. Insomma, questa decisione vede anche tante proteste. Federico Rampini su Repubblica si concentra sulla mobilitazione del capitalismo americano. Chiaramente il capitalismo, soprattutto anche la Silicon Valley, ma non solo, anche New York, le imprese americane da mezzo secolo, racconta Rampini, sono abituate a potersi rifornire di manodopera e cervelli attingendo a un mercato del lavoro globale. E dunque questa idea di creare barriere etnico-religiose ha un impatto dannoso sul business. In tutto è intervenuto anche Obama, dicendo, l'ex presidente ha detto, sono in gioco i valori americani. Diciamo che però vi voglio segnalare alcuni articoli, uno interessante, e ce l'hanno un po' tutti i giornali, raccontano chi ci sia dietro questa decisione. Ci si concentra tutti su una figura chiave per Donald Trump, vale a dire Steve Bannon, considerato l'anima nera dietro le mosse di Trump, compreso questo atto. E allora è bene che si cominci a sapere di chi si tratti, si cominci a conoscere questa figura che sarà centrale, giurano tutti, nel quadriennio di Donald Trump alla presidenza americana. Giuseppe Sarcina racconta chi sia Steve Bannon. Pagina 6 del Corriere della Sera. Ci possono essere due sistemi per misurare il potere reale di Stephen Bannon. Il primo è fare l'elenco degli incarichi ottenuti da Trump, dall'agosto 2016 capo della campagna elettorale, all'inizio del 2017 consigliere strategico alla Casa Bianca, dall'altro ieri componente del Consiglio Nazionale di Sicurezza. L'altra possibilità è contare i soprannomi che ha. Dottor Jekyll, Mr. Hyde, perché nella sua vita ha oscillato parecchio tra l'ortodossia repubblicana e il movimentismo politicamente scorretto. Grande Gatsby, per la sua vita avventurosa cominciata nella Marina Militare. In un'intervista l'8 novembre Bannon stesso si dichiarò di ispirarsi a Dick Cheney, vicepresidente all'epoca di George Bush, a Darth Vader, la forza oscura di Guerre Stellari, e direttamente a Satana. Questo è il potere, aveva concluso in questa intervista. In realtà, prima di approdare alla Casa Bianca, Stephen veniva spesso fotografato in bermuda e maglietta vissuta. Mettetegli una birra in mano e sembra un personaggio perfetto del film Il Grande Lebowski, ore in un bowling a parlare di vita e politica senza freni. Del resto, così è maturata la svolta di Bannon, 63 anni, la persona oggi più ascoltata da Trump, a parte Ivanka Trump e il marito di lei, Jared Kushner. È lui che ha scritto il discorso dell'inaugurazione, l'aspra requisitoria di Trump contro la politica di Washington. È Stephen che ha consigliato il bando sui 7 paesi musulmani. Un giorno, nel 1983, Bannon fu invitato in un viaggio ritiro organizzato da Goldman Sachs per selezionare talenti da assumere. Aveva già 30 anni, si era appena congedato dalla Marina Militare. Era cresciuto in una famiglia di operai di origine irlandese, cattolici, innamorati di John Kennedy, ma era rimasto disgustato dalla debolezza mostrata da Jimmy Carter nei confronti dell'Iran. Era l'epoca del boom di Wall Street, il giovane Bannon vide nella finanza un approdo per curare la sua inquietudine. Si iscrisse al Master di Business della Harvard University e quel giorno accettò l'invito da Goldman Sachs. Si trovò in mezzo a 700 ragazzi più giovani e determinati. Anziché partecipare agli incontri, passò la notte a bere birra, a concionare di baseball e politica con due compagni. Uno era John Weinberg Jr., figlio del grande capo di Goldman Sachs. Naturalmente Bannon fu subito assunto, ma neanche la fidanza riuscì a domarlo, a omologarlo. La banca gli affidò il settore dei media, si trasferì a Los Angeles, si appassionò di linguaggio visivo. Nel 90 si mise in proprio. Poi conobbe Andrew Breitbart, uno dei pionieri dell'informazione online americana, che lavorava a Drudge Report e indicava un giornalismo e predicava un giornalismo dichiaratamente schierato con la destra populista urticante con l'establishment. E questo è un po' il profilo di Bannon che ha ispirato tutto questo. In tutto, se ci si sposta dall'America, in Canada invece c'è stata una strage in una moschea a Quebec City. Il killer è uno studente franco-canadese di 27 anni, pare, ci sono ancora delle informazioni da confermare, si chiama Alexander Bissonnette e è sospettato di simpatie verso l'ultradestra xenofoba. Dunque lui, come racconta Guido Olimpio a pagina 2 del Corriere, è entrato nella moschea di Quebec City alle 19:30 quando c'era una cinquantina di persone, ha iniziato a colpire armi in pugno, aprendo il fuoco più volte sui fedeli, un attacco conclusosi con 6 morti, una decina di feriti, 5 in condizioni disperate, molti altri con traumi o sotto shock. Si racconta di una persona isolata, ostile agli stranieri, con simpatie per l'ultradestra. Questo almeno è lo scenario raccontato un po' da tutti i giornali. Veniamo all'Italia, la politica italiana. La politica italiana si concentra su quello che sta succedendo all'interno del Partito Democratico. Gran marasma, ma non solo, ci sono tutti i partiti, le coalizioni possibili che sono in movimento. Il PD intanto, D'Alema, ieri ancora è apparso in TV da Bianca Berlinguer e ha lanciato l'idea della scissione, dicendo, qui poi sono questioni, sarà di lana caprina, comunque politicamente tutto conta, dicendo è Renzi che se non convoca il congresso si pone in una questione di scissione, e questa è un po' la versione anche di Michele Emiliano. Insomma, un D'Alema che lancia una lista, chiamiamola scissione, dai, un partito che si può spaccare, e dice si può puntare al 10%, quindi capite la necessità altro che di coalizioni che vincano per arrivare al 40% e ottenere il premio di maggioranza con l'attuale legge elettorale. Qui si parla invece di partiti che si frantumano per arrivare a sempre più un numero spropositato di partitini. Ecco la lista D'Alema, vale il 10%, questo è il titolo di Repubblica. Secondo un sondaggio che il giornale mette a pagina 3, l'ultimo sondaggio è shock ed è stato presentato da Bruno Vespa ieri a Porta a Porta, addirittura Renzi, se perde il PD, scende al 20%, mentre gli scissionisti del PD potrebbero valere non il 10%, come dice Repubblica, ma addirittura fino al 14%. Ovviamente dovete accontentarvi così, di divertissement così sulle divisioni dei partiti. Per esempio, un altro retroscena interessante. Goffredo De Marchis racconta, pagina 10 di Repubblica, che Renzi ha tutto in mente una strategia, una sua strategia. Ed è questa, la roadmap per le elezioni anticipate, già pronta nella testa di Renzi. Si paventa aprile per avere maggiori chance di ottenere tutto a giugno. L'11 giugno è la data a cui pensa Renzi. Si apre dunque il tavolo sulla legge elettorale già questa settimana. Si convoca la direzione democratica il 13 febbraio per prendere atto delle condizioni possibili e quelle impossibili e definire il fatto che una volta approvati i piccoli aggiustamenti, la legislatura è finita. Il governo Gentiloni a quel punto pure dovrebbe dimettersi. No al congresso anticipato, quindi. No anche alle primarie per la premiership vagheggiate da qualcuno. Renzi punta a questo, ovviamente questa è la strategia renziana, bisognerà vedere se queste tappe verranno messe in pratica dal segretario del PD. In tutto questo, dall'altra parte, c'è il centrodestra che si muove, questo vertice sovranista, questa riunione dell'Italia sovrana, così vengono definiti i sovranisti, Meloni, Salvini, Toti in piazza Roma. Sentite un po' come li ha definiti Berlusconi, questo secondo retroscena di Carmelo Lopapa, sono a pagina 13 di Repubblica. Berlusconi, con Salvini e Meloni c'erano solo quattro gatti neri. Li chiama così in privato Berlusconi, la piazza dei quattro gatti neri. Si credono Donald Trump, ma quello è tutta un'altra storia. Eccole le perplessità di Berlusconi sulla manifestazione dei sovranisti Salvini e Meloni sabato a Roma. Giorgia, e cioè la Meloni, è un fenomeno solo romano. Matteo al centro-sud non esiste. L'operazione Noi con Salvini si è rivelata Noi con nessuno. Ha ragione Umberto Bossi. Questo è ciò che pensa Berlusconi, questo almeno secondo Repubblica. A proposito di gatti neri, eccoci qui con Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, non mi è chiarissimo l'accostamento, caro Alessandro. Così, ma il gatto nero è bello. Cioè, va bene, ma nulla può turbare la mia Letizia, perché come sai questa è la settimana di Telefisco, quindi l'umore Gaudeamus, sale. Gaudeamus igitur, esatto, o igitur se preferisci l'altra dizione. Hai già preparato l'abito per giovedì? Sì, un abito no. Concio? Frac, metto il molto frac. Bravo. Allora, guarda, vorrei cominciare proprio da norme e tributi, sai che mi è cara, leggi da sempre religiosamente. Ti segnalo, avessi mica tu lasciato dei soldi a Singapore, ecco, perché sai. Ero a Singapore quest'estate. Vedi che io ho colpito a casaccio, ma non troppo. Avessi mica tu lasciato dei soldi a Singapore, è entrata nei paesi collaborativi. Collaborativi, ecco. A Telefisco parleremo anche di voluntary disclosure, nel caso tu appunto avessi scordato di segnalarlo a Padoan, il quale Padoan, come sai, cerca sempre 3 miliardi e 400 milioni. Tu puoi mettere qualcosa, farebbe comodo a molti. Comunque, si pensa, leggi sul Sole 24 Ore di oggi, si pensa a una estensione del reverse charge per l'IVA. Ti è chiaro questo aspetto? Sono molto contenti i centri commerciali. Leggi, sì, perché quella è infatti una dei settori ai quali si sta pensando. Leggi comunque a pagina 4 e 5, consiglierei anche per lo stato di salute dell'economia europea. Ci manca sempre, non è che ce l'hai lì per caso, una norma per conciliare le nuove regole dei bilanci con il fisco. Non è la prima volta che te lo dico, non è che per caso te la sei persa tu, l'ha presa Peter magari? No. Ecco, vabbè, è perché non c'è sta norma, però servirebbe proprio. Oggi anche c'è un editoriale di cui consiglio la lettura di Salvatore Padula, appunto sul tema del fisco bilanci. E poi, naturalmente, oggi è la giornata del condominio, e quindi come fai a non farti trascinare in una lite inutile che altri condomini invece vorrebbero portare avanti? Leggi tutte le istruzioni nella pagina di condominio, che come d'abitudine sta in norme e tributi. Molto altro ti potrei dire del Sole 24 Ore. Ti consiglio di far vedere la vignetta di Domenico Rosa agli ascoltatori. Ecco, perché si parla di Bad Bank, cioè un sistema europeo addirittura per poter uscire dal problema dei crediti deteriorati. Vabbè, ma è chiarissimo, non è inutile che la spieghi. Ecco, bravissimo. Allora leggi poi a pagina 2, perché Beda Romano ti dice com'è questa proposta che viene dall'autorità bancaria europea per la Bad Bank europea. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, la sciocchina dell'informazione! Che vischera tu sei, Alessandro! Mannaggia, ragazzi, che danni che mi ha fatto Veronica Gentili. Allora, pagina 4 del Sole 24 Ore, come ci anticipava Mauro Meazza, Marco Rogare e Gianni Trovati raccontano esattamente quello che intendono fare Gentiloni e Padoan, cioè il governo italiano, perché oggi bisogna rispondere all'Europa, entro oggi. L'Europa chiede una correzione dei nostri conti dello 0,2% del PIL. Si tratta appunto di 3,4 miliardi di euro. Il vertice Gentiloni-Padoan, no a manovre estemporanee, possibili misure ad aprile. Nessuna manovra estemporanea, scrive il Sole, ma nemmeno un no secco all'Europa. Suona così la linea tracciata dal governo nell'incontro di ieri sera a Palazzo Chigi tra Gentiloni e il ministro dell'economia Padoan per definire cosa? I binari della risposta da inviare entro domani a Bruxelles. Gentiloni e Padoan, in perfetta sintonia, confermano l'intenzione di Roma di imboccare il sentiero stretto che conduce a evitare la procedura per debito eccessivo, senza però ricorrere a un correttivo immediato ed estemporaneo. Ogni giornale ha un proprio retroscena su come si pensa di rispondere all'Europa e nella lettera a Bruxelles, secondo il Corriere, si prevede più lotta all'evasione fiscale, una nuova finestra di rientro dei capitali, nessuna manovra sull'IVA, il reverse charge, come ha detto Mauro e come scrive il Sole 24 Ore. Secondo La Stampa, Fabio Martini a pagina 9, niente tasse, ma si punta a una mini correzione. Questa potrebbe essere un'altra strategia. Ci chiedete la correzione dello 0,2% del PIL. Noi prevediamo e proponiamo uno 0,1%. Vabbè, siamo al mercato delle vacche, però qui le vacche in questo caso sono i conti pubblici italiani, quindi sono molto molto importanti. Vi segnalo anche sempre dal Sole tutte le novità riguardanti Unicredit. Unicredit vara la maxi pulizia, questo è il titolo di Finanza e Mercati, perché è Unicredit che ha svalutato Atlante, ha fatto salire di un miliardo fino a 11,8 miliardi la perdita attesa per il 2016. E soprattutto quello che un po' ha allarmato è la banca ha messo in chiaro che senza un aumento di capitale da 13 miliardi di euro il rischio è che manchino i presupposti per la continuità aziendale. Luca Davi spiega tutti i particolari, la ricapitalizzazione, l'aumento di capitale c'è, è previsto, però è chiaro che questo ha anche un po' allarmato i mercati. E i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore, visto che si è ipotizzata anche l'idea del bail-in in caso di non continuità aziendale. Insomma, coloro che hanno anche i conti correnti di credito saranno interessati a leggere tutte queste novità. Per quel che riguarda la cronaca, voglio segnalarvi Vincenzo Iurillo lancia a pagina 3 del Fatto Quotidiano l'allarme del procuratore del presidente della Corte d'Appello di Napoli, De Carolis, che ha lanciato questo allarme. A Napoli ci sono 12.000 pregiudicati che non stanno scontando la pena, cioè persone condannate, ma manca il personale. Sono condannati recidivi per reati violenti, predatori. Restano formalmente incensurati, praticamente a piede libero, perché mancano mezzi, personale amministrativo per portare a destinazione la macchina della giustizia guidata a buona velocità da magistrati che sono più produttivi di un terzo rispetto ai colleghi di Roma, Milano e Palermo, fa sapere il presidente della Corte d'Appello De Carolis, ma all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma poi non ci sono le persone per fare eseguire le condanne. Che paese strano, lo faccio vedere anche nella pagina mia pubblica di Facebook. Condannati e stanno fuori, e in carcere ci sono migliaia di persone in attesa di giudizio e dunque presunti innocenti, ma già in carcere. Avete capito? I condannati fuori e moltissimi presunti innocenti, forse condannati, già in carcere. Ma è un paese così. Allora, vi segnalo che è morto Masaya Nakamura, 91 anni, in Giappone. La società ha dato la notizia ieri e voi direte: ma che diavolo è sto Masaya Nakamura? Va bene, se io vi dico Masaya Nakamura, voi storcete la bocca, ma se io vi dico l'inventore del Pac-Man, che vi siete illuminati, il Pac-Man, certo, addio alla leggenda di Pac-Man, la pallina che si mangiò il mondo, è morto a 91 anni Masaya Nakamura, inventore nel 1980 del Pac-Man. Eccolo qua. Va bene, mi sta venendo un po' i nervi a fior di pelle, caro Peter. Va bene. Siamo però alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, l'annuncio su Instagram di Lapo El Can, che annuncia a tutto il mondo: grazie a tutti, mi ritiro dai social perché voglio una nuova vita. Ma chi se ne frega!